la cosiddetta variante inglese a dominare la scena, con tutti i timori che si porta dietro in merito all'efficacia del vaccino e alla sua rapidità di diffusione. Con tutti i problemi che si porta dietro in merito al tracciamento di chi è arrivato nelle scorse settimane dalla Gran Bretagna e chi è rimasto incastrato là. Ed è forse anche la variante inglese a riportare un po' di calma dalle parti della politica, che si agita sempre quando il virus sembra placarsi e si placa quando il virus si agita. Segnali di apertura sia da Conte che da Italia Viva e l'ipotesi di una caduta dell'esecutivo che sembra farsi più distante. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. Cari ascoltatori, come state? Sono le 6:31 minuti e 40 secondi ed è martedì 22 dicembre e ci siamo anche oggi con Lorenzo Nespoli in assistenza, Peter Bescapè in regia e con questa variante inglese che ci mette paura, Niente panico, dicono tutti gli esperti, va solo un po' più veloce. Poi c'è molto altro in questa giornata, ovviamente, la perizia su Ponte Morandi, quella che attesta la scarsa manutenzione. C'è la vicenda pazzesca, ragazzi, di Navalny, ma l'avete vista? Il grande oppositore di Putin che si finge un ufficiale del servizio segreto russo, chiama un uomo del servizio segreto russo e gli fa ammettere in una telefonata di 49 minuti come lo hanno avvelenato. C'è molto altro. C'è il meraviglioso esame di italiano di Suarez. Meraviglioso, meraviglioso. Piace molto fare barbecue. Vado a fare cibo, che vuol dire vado a fare la spesa. Il bambino porta cocumella, il cocomero. Ah, sì, prenda pure la carta d'identità, il passaporto, signor Suarez. Lei è un cittadino italiano. E io continuo a pensare un po' più seriamente a tutti quei ragazzini che sono cresciuti qua e che sono nelle scuole italiane, che stanno qua da anni, che sono degli italiani e che devono aspettare ad avere la cittadinanza e parlano l'italiano molto meglio di tanti italiani, tra l'altro. Va bene, si fa per dire, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp. E che figuraccia internazionale poi questa di Suarez, non ne parliamo nemmeno, proprio l'Italia che ne esce malissimo. Vi preannuncio che abbiamo deciso di fare una replica di ieri, una replica per modo di dire. Abbiamo richiamato Alfonso Castellone, comandante della Polizia Locale di Olgiate Olona, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Comandanti e Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale, sarà con noi tra poco. Con le vostre domande, se volete, cosa posso fare? Ho tre figli, uno è maggiorenne, cosa faccio? Sono divorziato, mio figlio abita in un altro comune, ha più di 18 anni, cosa faccio? Perché un po' siamo un po' presi dai dubbi tutti. Iniziamo però dalla famosa variante inglese. Sembra Wuhan, sembra come Wuhan. Si accusano adesso gli inglesi di aver nascosto questa variante, che in realtà era nota da settembre. Ricciardi. è diffuso in tutta Europa, perché di fatto purtroppo i colleghi inglesi, a meglio il governo inglese, ha avvertito tardi, perché pare che questa variante loro l'abbiano già trovata a settembre, quindi hanno passato ottobre, novembre senza dare informazioni. E così Ricciardi quindi accusa abbastanza nettamente il governo britannico, mentre sempre dagli scienziati c'è Locatelli che dice no, ma guardate, pensare che si siano comportati come sospettiamo che si siano comportati i cinesi è impensabile, sentiamo. Ma io non credo, insomma, che un'istituzione sanitaria come quella britannica abbia voluto nascondere alcunché, insomma, sarebbe francamente sorprendente, non credo che sia una tesi accreditabile. Un ascoltatore un po' preoccupato dice: anche quest'estate ci hanno detto di non preoccuparci. Calma, calma, ragazzi. Quello che dico è che viaggiamo, è quello che diciamo dall'inizio della pandemia, e su questo dobbiamo essere molto chiari: viaggiamo in una terra incognita. Questo in assoluto, in generale, questo vale tanto quanto quando giudichiamo i provvedimenti delle varie autorità, e quando è che si vogliono giustificare tutti i provvedimenti del governo, perché poi va fatta selezione, va osservato attentamente, va visto che cosa succede, però sia quando si giudicano i provvedimenti delle autorità, sia quando sentiamo alcune dichiarazioni un po' a caso. Vi ricordate che all'inizio di questa seconda ondata, che forse in realtà è ancora la prima ondata, vi abbiamo fatto ascoltare proprio qua le voci di tutta una serie di esperti che dicevano: la seconda ondata è improbabile, la seconda ondata non ci sarà. Lo stesso Locatelli che avete sentito adesso parlare diceva qualcosa di questo genere, cioè non si spingeva a dire non ci sarà, ma diceva improbabile. Quindi viaggiamo in terra incognita, e quindi senza scatenare il panico stiamo attenti. Teniamo presente che la scienza sta lavorando a sprombattuto con una marea di risorse esattamente su questo, su come riconoscere il virus, su come contenerlo, sui vaccini e via dicendo, e appunto prendiamola con calma, con attenzione e rispettando le consuete regole. L'epidemiologa Salmaso, sentiamola qua. Non sembra associata a quadri clinici più severi, né sembra associato a un problema di induzione di risposta immune diversa da quella del vaccino. Quindi in qualche modo non è più pericolosa in questa direzione. Sembra più pericolosa nel senso che ha preso piede e si è diffusa, spiazzando tutti gli altri virus circolanti, ma non è associata a quadri clinici più severi. Questo è quello che sappiamo finora. Agostino Miozzo, il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, si dice preoccupato. Dice: non vorrei che tutto questo, la dico io così, che tutto questo cinema che si sta facendo intorno alla variante inglese e intorno al tema del vaccino in relazione alla variante inglese conduca ad un fallimento della campagna vaccinale. Sentiamo. Deve essere fatto, non dobbiamo nemmeno mentalmente pensare di crearci dei dubbi in questo momento, dobbiamo andare tutti convinti verso una stagione di vaccinazione di massa che sarà la più grande vaccinazione della storia recente. Intanto ieri l'autorità europea, l'EMA, ha dato il via libera al vaccino Pfizer-BioNTech, sentiamo. EMA's scientific committee met today and recommended a conditional marketing authorization in the EU for the vaccine developed by BioNTech. Mentre il presidente americano, a questo punto il presidente eletto americano, lo possiamo dire finalmente, c'è qualcuno che ancora ci scrive e dice: no, guardate, non è presidente eletto, è presidente eletto a questo punto, Joe Biden. Tra l'altro apprendiamo da notizie di questa notte, indiscrezioni di questa notte, dallo staff di Donald Trump, che tra le mosse che starebbe pensando l'ormai ex presidente americano c'è quella di rimanere alla Casa Bianca. Cioè, nel giorno dell'inaugurazione di Biden non se ne va, lo devono portare via praticamente con tutta la poltrona. Vabbè, Biden ieri si è vaccinato. It's worth saying that this is great hope. I'm doing this to demonstrate that People should be prepared when it's available to take the vaccine. There's nothing to worry about. I'm looking forward to the second shot. So is Jill. She's had her shot earlier today. She loves shots, I know. Ed eccolo Joe Biden che si vaccina mentre... Oh, teniamo a presente, a proposito di Locatelli, a proposito di vaccini, teniamo presenti le date. Adesso noi stiamo archiviando un po' di cose tra Locatelli, Arcuri, insomma, tutti quelli che ci dicono le date. La campagna vaccinale in Italia inizierà in quella data, in quel giorno vaccineremo la prima persona, eccetera, eccetera, e poi andremo a verificare. Intanto Locatelli. Attorno al 30 di dicembre o al massimo i primissimi, ma davvero primissimi giorni dell'anno, ma molto più probabilmente già il 30 di dicembre potremmo iniziare le vaccinazioni, poi insomma al massimo la forchetta di variazione in quei pochissimi giorni. Oh, nel frattempo c'è il report che sta facendo un lavoro sulla pandemia in generale. Ieri è stata una puntata molto densa con tutto il tema del piano pandemico, le date cancellate e modificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma è stata anche una serata nella quale molto si è parlato di un tema che già qua discutemmo, ossia i numeri della Campania, i numeri dei posti in terapia intensiva in Campania. Questa voce mi ha colpito particolarmente, anzi due voci mi hanno colpito particolarmente. Il responsabile del 118 della Campania che dice: sì, guardate, effettivamente i posti dichiarati non sono quelli effettivi. Quindi diciamo, per parlare di Covid non ci sono, cioè nel senso, no. quando vediamo le file delle ambulanze perché quei posti non ci sono. Assolutamente, così è. Ossia sono posti che la regione porta come utili, però non sono posti disponibili in questo momento Covid. Però vengono dati in relazione al Covid, cioè è questo che mi sfugge. E questo però non lo devi chiedere a me, purtroppo. Capito come funziona? E Pietro Di Cicco, primario di medicina urgenza, credo a Castellammare, la spiega così. Qualcuno affermi che ci siano posti liberi in Campania, me lo dica, perché io probabilmente sono incapace io, ma non riesco a trovare i dati già posti liberi. Mandiamo tre volte al giorno il flusso richiedendo posti letto. Negli ultimi giorni nessun posto letto da nessuna parte in Campania. E il presidente o il segretario della NAWA, insomma, che è il sindacato dei medici campano, Pierino Di Silverio, sempre da Report. Se io vedo il bollettino regionale mi rendo conto che la situazione dal bollettino non è così grave. Poi però quando viviamo quotidianamente il nostro lavoro e ascoltiamo con le nostre orecchie che non è possibile trasferire un paziente Covid perché non c'è un posto in regione, ci chiediamo: ma i 590 posti attivabili della terapia intensiva dove sono? I 3180 posti di lungo degenza dove sono? Ed ecco qua. Ecco qua, le accuse sono pesanti, attenzione. Oh, come vi dicevo in apertura, cosa succede? Succede che quando il virus riprende corpo, quando il virus ricomincia a circolare, quando scattano nuovi timori, improvvisamente la politica si placa, almeno in parte, si calma un pochino. E infatti, con tutta la storia della variante inglese, che come avete visto ha avuto anche un impatto sulle borse pesante, ha creato preoccupazione, improvvisamente ieri i toni si sono fatti più morbidi. Il Presidente del Consiglio ha incontrato il Partito Democratico, le delegazioni del Partito Democratico del Movimento 5 Stelle, sarà poi il nostro ospite la Vice Ministra all'Economia, Laura Castelli, e ha detto: riprendiamo le discussioni, tutto più tranquillo pare. Al di là della discussione politica e delle polemiche anche che ci sono in questi giorni, dobbiamo assolutamente riprendere con la massima lena, col massimo vigore, la discussione sul recovery plan italiano. Massima lena, il massimo vigore. E vabbè, poi qua c'è, guardate, sono dichiarazioni quasi di circostanza, non ve le faccio nemmeno ascoltare. Il ministro Bonafede che dice basta polemiche, il ministro Provenzano che dice non minacciamo sul prendere il fondo salva stati, ma discutiamone in Parlamento. Ragazzi, sono le solite cose. Adesso vediamo cosa succede nella giornata di oggi. Conte incontra la delegazione di Italia Viva e vedremo se succederà qualcosa. Intanto si moltiplicano i retroscena di qualcuno dei più interessanti, almeno di uno dei più interessanti, vi darò conto poi in rassegna stampa. Intanto il traffico e poi torniamo su queste benedette, maledette regole per Natale. Il caos regna sovrano. Mattino. Sono Radio 24, ma secondo me Suarez si è espresso meglio di una maggior parte dei nostri politici. Esagerato. Oh, ben ritrovato Alfonso Castellone, comandante della Polizia Locale di Olgiate Olone e vicepresidente dell'Associazione Nazionale Comandanti Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale. Di nuovo buongiorno. Io non me ne sono mai allontanato. No, è che ieri ci hanno sentito un po' tardi. È arrivata una valanga di domande perché la gente non sa che fare. Le dico, l'ultima che è arrivata è questa di pochi istanti fa. Il 25 mattino posso andare a fare una corsetta? Sì. Sì. L'importante è che sia all'interno del comune di residenza, di domicilio o di abitazione temporanea. Oh, benissimo. Oppure il cognato in un comune, questa è una situazione, perché poi sono mille situazioni particolari, no? Sentiamo. Buongiorno, un'informazione, io abito in un comune di 5.000 abitanti, meno, dovrei andare a prendere il mio cognato che non è automunito in un comune limitrofo che è capoluogo di provincia. Posso andare a prenderlo e portarmelo a casa per Natale? Oh, teoricamente no, Castellone, no? Allora, non fatemi dire come si possono aggirare i controlli, perché io devo riverificare. Però in realtà è stato anche nelle ultime FAC del governo. Uno può pensare che il signore va a trovare il cognato a casa e quindi siamo nel campo della... non sono più di due e quindi è in quella situazione. Questo è consentito in tutti i giorni rossi, sì, e in tutti i giorni gialli. Sì. Dopodiché il cognato rientra, va a casa di questa persona, anche lui rientra nella fase rossa. E il problema è che appunto non si possono fare più di una volta al giorno. In quel periodo. E quindi di fatto posso andare da mio cognato, dormo da lui e la mattina dopo lo porto a casa, in sostanza. Diciamo anche così, perché vi ricordo che è sempre consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione. Vedi, perché poi c'è anche questo. Allora, sentiamo la domanda, c'è un ascoltatore che dice ho la fidanzata in un'altra regione, sentiamo. Stavolta non ha pensato chi ha la morosa in altra regione, adesso niente, fino al 6 gennaio, visto che lavoriamo tutti e due, fino al 6 gennaio zero, almeno avessero lasciato una finestra un giorno da Natale all'ultimo dell'anno, niente, fino al 6-7 gennaio non se ne parla. Qua non ci sono speranze qua. No, perché il fuori regione è sempre consentito per quei tre motivi classici che ci siamo sempre detto: lavoro, salute e situazioni di necessità, che non rientra, io capisco il signore, ma non rientra il saluto alla fidanzata. Fossero in realtà in domicili, ecco, allora anche lì è consentito, devono concordare in un domicilio, se era in un domicilio comune, rimane sempre il fatto che fuori regione è vietato, quindi se fosse all'interno della regione non c'è problema, ma fuori regione è vietato. Ma il rientro al proprio domicilio è consentito anche dopo le 22? Dopo il 22 ci deve essere la motivazione perché era... Perché eri fuori casa, in sostanza, esatto. il perché eri fuori casa. Esatto. Allora, sentiamo qua quest'altra, via. Buongiorno, scusate, velocemente, nella zona rossa, il giorno di Natale, posso spostarmi da un comune diverso purché stia nella stessa regione? Per favore, rispondete a questa domanda. Mi pare di... Per fare che cosa? Cioè io faccio la domanda, per fare che cosa? Perché ricordiamoci che in zona rossa è vietato qualsiasi spostamento anche all'interno del comune e deve essere, ci siamo dimenticati di Spezia che è tornata in voga l'autodichiarazione, a go-go bisogna portarsene dietro per evitare di perdere tempo, perché ogni spostamento deve essere dichiarato. Tutti. Da questo momento in avanti o nei giorni o prefestivi e festivi? Oggi siamo quasi tutte le regioni siamo ancora in giallo, tranne l'Abruzzo che è in arancione, quindi in Abruzzo non vigono le regole di oggi per le altre regioni, sono in arancione, ok? Quindi comunque ha delle restrizioni legate all'arancione. Quindi per dire alla signora ci deve essere il motivo, uno dei motivi per esempio che non si può fare è andare a fare turismo nei giorni rossi anche all'interno del proprio comune. Sappiate che le deroghe che sono state messe con il credito di Natale di spostamento sono deroghe appunto all'obbligo di non spostarsi. Quindi le deroghe all'obbligo di spostarsi devono essere sono tassative. Sì. Se no non ci si spostava, se no non si può spostare, se non per motivi che abbiamo detto. Sì, dice un ascoltatore, posso portare da mangiare i miei cani in un comune confinante, ma quello è una situazione di necessità, tra l'altro, no? Le farmacie sono in turno, io vado alla farmacia, io faccio sempre esempio la farmacia, però nei paesi sono di turno e capita anche che magari a 10 km c'è la farmacia di turno più vicina. Io posso andare alla farmacia di turno, assolutamente. Rosso, bianco, verde, in qualsiasi momento rientra nei motivi di salute. Giustificherò il fatto che sto andando in farmacia con l'autodichiarazione, al ritorno verso casa avrò lo scontrino della farmacia nel quale è indicato il giorno, l'ora e il motivo per cui sono andato. Oh, questo ascoltatore invece ha lo stesso problema mio, cioè in realtà non devo andare da nessuna parte, però il concetto è più o meno questo, sentiamo. In famiglia siamo in 5, 2 genitori, una figlia di 11 anni, una di 16 e una di 18. In casa possiamo stare tutti e 5 insieme, ma se ci spostiamo in macchina non lo possiamo fare? Che dice Castello? Dipende. Allora, se vado nella seconda casa all'interno della regione lo posso fare. Solo nucleo familiare, seconda casa lo posso fare, fra l'altro in tutti i giorni, e questo l'ha chiarito anche la FAC recentissima del governo. Devo andare a trovare i genitori, non si può fare, nel senso che un maggiorenne deve rimanere a casa. Dopodiché non fatemi dire come si possono agire le cose. No, giustamente lei è un ufficiale di polizia locale, quindi anche perché in realtà la legge parla di spostamento, non è detto che lo spostamento possa essere considerato quello all'interno dello stesso veicolo, quindi potrebbe ipoteticamente io potrei essere a casa vicino in prossimità dell'abitazione del genitore dei signori e vedo in 3 minuti uno dietro l'altro arrivare 2 veicoli in quella località, quindi sono all'esterno, posso fare i controlli, li ferma tutti e due e bam, mazzata ad entrambi, 533 euro a ciascuno a questo punto. Uno, quello che arriva dopo. Sì, io penso che si possa andare a fare legna nel campo nei giorni rossi fuori vale dal comune. Vale sempre, anche esatto. Le FAC, le zone rosse valgono ancora, quindi andare a zappare il proprio orto, anche se in questo periodo non so cosa si faccia, fare la legna sempre però fuori regione. Sarei molto molto tassativo. Qua sul fuori regione nei comuni confinanti entro i 30 chilometri perché io lo so, guardate, so che sembra una un delirio questa cosa, io lo so, abbiate pazienza, un ascoltatore dice sembra una pista di Ionesco, capisco benissimo, però cerchiamo anche questa, no, di lo spostamento verso una sola mi spiace, ma anche quei comuni che si dividono le regioni a metà del bar, come è stato di recente fatto, ho visto alcuni servizi di quei paesi dove i confini addirittura tagliano le case, sono quelle eccezioni bellissime italiane, ma sono eccezioni, se la legge dovesse contemplare tutte le eccezioni sarebbe molto più complicato. Io, allora, poi ognuno ha le sue esigenze, per carità, andare al cimitero a Natale anche capito. In realtà questa è una domanda che mi ha fatto proprio ieri, sì, una persona di Foggia Torona, se innanzitutto si è aperto il cimitero, questa è la prima cosa. Seconda cosa, è legata all'interno del comune, diciamo che si può fare, perché poi anche lì la distanza rimane sempre la passeggiata, che nei limiti rimane sempre l'attività motoria, fuori comune questa situazione di necessità. Un conto sono i funerali, ecco, su questo mi sento di dire in maniera molto sicura che i funerali anche fuori regione, per andare a partecipare al funerale rientrava anche nelle FAC precedenti e poi rientra a casa. Mi spiace, ma credo che per quanto riguarda il cimitero si possa anche aspettare qualche giorno. Qualche giorno, decisamente. Allora, grazie Alfonso Castellone, comandante della Polizia Locale di Olgiate Olona, provincia di Varese, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Comandanti e Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale. Per tutto il resto vi rimando alle Frequently Asked Questions che trovate sul sito del governo, le FAC, con ulteriori dettagli, suppongo, o forse no. GR24, ci ritroviamo tra un attimo con la rassegna stampa.